Ciao utopiste ed utopisti, questa volta vorrei iniziare le mie utopiche insinuazioni citandovi una frase di un testo scritto nel 1985 da Charles Tilly, sociologo, politologo e storico statunitense, dal titolo La guerra e la costruzione dello Stato come crimine organizzato. Questo è il passaggio. Se il racket costituisce la forma più raffinata di crimine organizzato, allora la minaccia della guerra e la costruzione degli stati, classiche forme di racket col vantaggio della legittimità, costituiscono il più grande esempio possibile di crimine organizzato. E infatti, mi sembra che almeno per quanto riguarda la storia di questi ultimi secoli, descrivere coloro che fanno le guerre e coloro che fanno gli stati come imprenditori coercitivi ed egoisti, corrisponde molto più ai fatti che le principali rappresentazioni alternative, ipocrite e falsamente simboliche, che blaterano di contratto sociale e norme condivise. La calzante analogia di Tilly della guerra e la costruzione dello Stato con il crimine organizzato appare più che mai attuale. Come il racket, lo Stato è nato offrendo sicurezza da minacce da esso stesso suscitate. Col tempo lo Stato è però sceso a patti con le sue vittime, riducendo l'uso della violenza, dapprima garantendo i diritti di proprietà alla classe mercantile, in seguito erogando una mole crescente di servizi alla popolazione per assicurarsene la quiescenza, infine costituendo grandi burocrazie pubbliche in grado di organizzare tali attività. Così, con l'andare lento del tempo, lo Stato è divenuto, e non è un particolare trascurabile, più generoso verso la popolazione. Ma la traiettoria che esso ha seguito è stata tutt'altro che lineare, e molto incerti sono stati e sono tuttora i suoi esiti. Il mostro benefico immaginato da Hobbes per stabilire l'ordine è una finzione. Non è un ordine assoluto, è l'ordine che più conviene alle fazioni che di volta in volta assumono le fattezze dello Stato. Non è necessario fare troppi conti per scoprire che la mole di disordine suscitata dallo Stato non è meno imponente dell'ordine che esso ha preteso di stabilire. E l'inevitabile punto di arrivo di questo disordine e di tutte le contraddizioni di un sistema basato sullo sfruttamento dell'uomo sull'uomo, per conseguire come fine ultimo l'accumulo privato di profitti e capitali, è appunto l'esplodere di un conflitto, il feroce scandalo della violenza, che, tanto più associato alle attuali capacità tecnologiche, pone ai nostri tempi precisi interrogativi politici sulla possibilità di considerare ancora la guerra come strumento attuale di politica internazionale. Quale giustizia potrà trovarsi in guerre che non vengono dirette contro i leader avversi o le loro truppe, ma puntano direttamente contro la popolazione civile? Guerre che sono diventate azioni di terrore sulle popolazioni delle città e delle campagne, più che strumento per battere l'avversario schierato in campo. È offensivo per l'intelligenza che un modo così assurdo e disumano come la distruzione reciproca sia considerato come unico rimedio a presunte ingiustizie. E ancora una volta l'umanità è caduta nella cosiddetta trappola di Tucidide, espressione che definisce la tendenza che porta le tensioni politiche per la supremazia tra entità statali a sfociare in vere e proprie guerre. Come, you masters of war. Here that build the big guns, here that build the death planes, here that build all the bombs, here that hide behind walls, here that hide behind disks. I just don't want you to know I can see through your masks. You that never done nothing but build to destroy. You play with my world like it's your little toy. You put a gun in my hand and you hide from my eyes, and you turn and run farther when the fast bullets fly. Like Judas of old, you lie and deceive. A world war can be won. You want me to believe, but I see through your eyes, and I see through your brain, like I see through the water that runs down my drain. You fasten all the triggers for the others to fire, and then you sit back and watch when the death count gets higher. You hide in your mansion while the young people's blood flows out of their bodies and is buried in the mud. You've thrown the worst fear that can ever be hurled, fear to bring children into the world, for threatening my baby, unborn and unnamed. You ain't worth the blood that runs in your veins. How much do I know but to talk out of turn? You might say that I'm young, you might say I'm unlearned, but there's one thing I know, I'm younger than you, that even Jesus would never forgive what you do. Let me ask you one question. Is your money that good? Will it buy you forgiveness? Do you think that it could? I think you will find, when your death takes its toll, all the money you made will never buy back your soul. And I hope that you die, and your death will come soon. I'll follow your casket by the pale afternoon, and I'll watch while you're lured down to your deathbed, and I stand over your grave till I'm sure that you're dead. Ma la guerra nasce prima di tutto nell'uomo, in quest'ombra che è in ognuno di noi e che si oppone alla luce. È un disordine al quale non potremmo rimediare con una semplice applicazione delle regole della ragione. La guerra è un comportamento irrazionale e non si può porvi fine con una decisione della volontà umana. Essa s'abbatte sull'umanità come una fatalità davanti alla quale la ragione è superata. È una malattia della specie umana, una psicosi collettiva, risultante da ciò che Jung chiama una infezione psichica o un contagio psichico, più devastante di una pandemia. Se la guerra è razionale, è perché è, almeno in parte, fondata su motivazioni inconsce. In tal caso non si può pensare di affrontare direttamente queste motivazioni e tentare di ridurle al silenzio con la forza persuasiva della ragione. Il rimedio è più sottile e la via della guarigione molto più complicata di quanto vorremmo. Essa passa attraverso l'allargamento e l'approfondimento della coscienza individuale. La radice della guerra sarebbe allora da cercare nella struttura bipolare dell'inconscio. Infatti, quest'ultimo racchiude coppie di opposti che trascinano l'essere umano e tendono a dividerlo. Ma è proprio questo lo scopo supremo dello sviluppo della personalità: arrivare a un punto di equilibrio dove l'armonia si instaura tra le tendenze antagonistiche, quello che Jung ha chiamato il processo di individuazione, la conoscenza di sé. La conoscenza, dunque, come elemento strategico per la crescita e lo sviluppo di una umanità futura. Povera patria, schiacciata dagli abusi del potere, di gente infame che non sa cos'è il pudore. Si credono potenti e gli va bene quello che fanno, e tutto gli appartiene. Tra i governanti, quanti perfetti e inutili buffoni, questo paese è devastato dal dolore. Ma non vi danno un po' di dispiacere quei corpi in terra senza più calore? Non cambierà, non cambierà. Forse cambierà, ma come scusare le iene negli stadi e quelle dei giornali? Nel fango affonda lo stivale dei maiali. Me ne vergogno un poco e mi fa male vedere un uomo come un animale. Non cambierà, non cambierà. Che il mondo torni a quote più normali, che possa contemplare il cielo e i fiori, che non si parli più di dittature. Se avremo ancora un po' da vivere, la primavera intanto tarda ad arrivare. Vi saluto dandovi appuntamento alla prossima con due brevi frasi freccia. La prima è di Bertolt Brecht. Non diranno: i tempi erano oscuri, ma perché avete taciuto? La seconda è di Giorgio Agamben. C'è da qualche parte un foglio in cui sta scritto il nome di coloro che in un mondo di menzogna hanno testimoniato della verità. Questo foglio esiste, ma è illeggibile. C'è poi un altro foglio, perfettamente leggibile, che registra questi stessi nomi. Sta nelle mani dei questurini e dei giornalisti. Ciao a tutte e tutti.